Gli Irrinunciabili presenta Alien Scontro Finale, un film di James Cameron. Alien Scontro Finale è il secondo capitolo della serie. Pur mantenendo in parte l'estetica del suo predecessore, diretto da Ridley Scott, Cameron si discosta completamente da quanto fatto dal suo collega e proporrà la sua versione. Reduce dalla direzione di Terminator darà vita a un film d'azione dove horror e fantascienza si incontrano per creare un mix esplosivo. Fu un successo di critica e pubblico. Giustamente ancora oggi è considerato il capitolo più iconico della serie. E poi c'è lei. Sì, ancora lei, Ripley, interpretata dalla fantastica Sigourney Weaver. Provata per tutto ciò che ha subito nel primo capitolo, dopo 57 anni di ibernazione, tutti i suoi affetti sono ormai morti, la sua vita è distrutta, deve ricominciare da zero. Saprà reagire, perché è un'eroina dura, tosta, ma che però in alcune occasioni non rinuncia sul lato più vulnerabile, e noi l'amiamo anche per questo. Il film si svolge prevalentemente su una colonia, di un lontano pianeta. Gli abitanti non danno più segni di vita. Sarà compito di alcuni Marines, caratterizzati in maniera ottima, andare a controllare cosa sta succedendo. Ripley sarà presente in veste di consulente. Quello che troveranno sarà mostruoso. Gli abitanti morti, una bambina riuscita miracolosamente a sopravvivere, a cui Ripley si regherà molto, e una colonia di terribili mostri, i xenomorfi. Qua la cosa si fa interessante, perché se nel primo film, ricco di tensione e di atmosfera, era presente solo uno xenomorfo, tra altre cose neanche particolarmente reattivo, qua abbiamo una colonia di questi mostri. Si muovono in gruppo, sono dei predatori letali che fanno imboscate e sanno muoversi velocemente, cercando anche vie alternative per sorprendere i loro bersagli. Hanno acido al posto del sangue, e questo li rende difficili da combattere, in particolare dalle distanze ravvicinate. Hanno una regina madre gigantesca, che sarà protagonista di un'epica scena. Ricordano un po' la struttura sociale degli insetti. Infatti, il loro compito non è uccidere in maniera indiscriminata, ma trovare esseri viventi che diventeranno delle incubatrici per i loro piccoli, in modo tale che la colonia di xenomorfi possa espandersi e avere un futuro. Il film, pur essendo molto semplice nel suo evolversi, è una pietra miliare, funziona perfettamente. La regia e i tempi con cui l'azione è scandita sono perfetti. Ancora oggi molti registi di film d'azione dovrebbero studiare quanto fatto da Cameron con questa pellicola. I personaggi sono tutti ben caratterizzati, ogni marine ha la sua personalità, spesso sopra le righe, e saranno di sicuro ispirazione per tutti i soldati che vedremo in tantissimi altri film. Inoltre tutti gli attori che interpretarono i Marines furono mandati per ben 2 settimane ad addestrarsi con i SAS inglesi, per aumentare la loro credibilità. Bellissimi effetti speciali. Stan Winston è stato un genio. I xenomorfi che vedete su schermo sono dei costumi. In alcuni casi non erano neanche completi, ma grazie ai giochi di luce e inquadrature funzionali allo scopo, il colpo d'occhio è fantastico. Se pensiamo a certa computer grafica posticcia di oggi, ci viene da piangere. Diverse le battute ormai mitiche, leggendarie, entrate nella storia. Quando i Marines incontrano per la prima volta i xenomorfi è presente forse la più famosa. Vengono fuori dalle pareti, vengono fuori dalle fottute pareti. Uno dei più grandi film d'azione di tutti i tempi, è entrato saldamente nell'immaginario collettivo. Buona visione.